L'uragano Sandy sta arrivando, nel senso che l'occhio del ciclone non è ancora arrivato vicino a New York, vicino a Manhattan, ma anche vicino al New Jersey, vicino al Connecticut, perché questo è un uragano che ha un'estensione di oltre 1000 chilometri. L'impatto più forte lo avremo questa notte. I meteorologi dicono che i venti raggiungeranno i 120 chilometri all'ora tra questa notte e domani. Domani sarà la giornata più dura. In light of these conditions, I'm going to sign an executive order mandating evacuation of zone A areas. Il sindaco Bloomberg, lo avete sentito, è intervenuto varie volte e ha deciso di dare un ordine di evacuazione. Lo ha deciso ieri pomeriggio. Entro le 7 di domenica, 375.000 persone residenti nella zona A, cioè in quella zona di New York esposta vicina al mare. E ricordiamo, New York è un grande porto, una città di mare, quindi non soltanto l'isola di Manhattan, ma anche Brooklyn, Queens, il Bronx, Staten Island, che è un'isola, sono esposte al mare. E dunque nelle zone costiere, la zona A, è stata ordinata un'evacuazione obbligatoria. Ci sono poi altre due zone a rischio, la B e la C, ma perché diventino a rischio occorre che l'uragano diventi da forza 1 a forza 2 e persino a forza 3, cosa che in questo momento sembra improbabile. Il sindaco ha anche deciso di chiudere le scuole. Le metropolitane hanno cessato di funzionare ieri pomeriggio alle 7, gli autobus ieri sera alle 9. The beaches are dangerous and surfing is extremely dangerous. You may want to run the risk, but if we have to send our emergency workers into the ocean to save you, their lives are at risk. Di nuovo il sindaco raccomanda prudenza per tutti, che tutti seguano le regole e le indicazioni, e cioè chi decide di non lasciare la casa, di non evacuare, lo fa a suo rischio e pericolo. Il sindaco sottolinea: rischia la sua vita, ma rischia anche quelle degli altri, perché se poi dovesse trovarsi in difficoltà, le squadre di soccorso dovranno andare ad aiutare e quindi metteranno a rischio la loro vita. Un appello anche del sindaco ai surfisti: sappiamo, ha detto, che vogliono recarsi a cavalcare le onde alte. Bene, li imploro di non farlo.